Radio 24 presenta Il sabato del villaggio di Marta Cagnola. Sono le 15 in punto e ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio, lo sapete, il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. Insomma, i nostri liberi consigli per il fine settimana. Nella terza ora, dalle 17 alle 18, poi il nostro consueto appuntamento insieme a Daniele Bellasio con RadioTube per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Ma ora scopriamo i temi della prima ora che passeremo insieme. Sarà una bella puntata nella quale parleremo tanto di cose belle dall'Italia. Allora, ci saranno i consigli per le uscite al cinema del fine settimana e anche qui qualche consiglio italiano. L'appuntamento con il gastronauta questa settimana sarà molto rosa, ma andremo poi insieme anche a Verona. Verona in questi giorni capitale del vino. Con Enrico Pagliarini parliamo di novità in fatto di telefonini, ma ve lo dicevo, il filo conduttore del nostro sabato sarà il bello dell'Italia. Sì, il Made in Italy, come lo intendiamo di solito, ma non solo. Gomorra è un inno all'artigianato cinematografico italiano. Sono molto, molto, molto pignolo. Facciamo, Chico! Questa me la fate un po', però un po' meno. L'aiuto regista fa tutto, è una specie di badante. Stop, stop! Bisogna essere molto zen. Montatore non la perde mai la testa. Dalle suggestioni che ci vengono, componiamo. L'oscurità è la parte centrale dell'immagine. Abbiamo fatto molte sparatorie. Lavoro all'incontrario. Qualche esplosione. Ho un'indole da piromane, sì. Se c'ho un microfono in mano posso fare dei gesti pericolosi. Avete capito che stiamo parlando di Gomorra. Manca poco all'arrivo di Gomorra 2. Ma non stiamo parlando solo di Gomorra, perché Gomorra sta facendo molto parlare di sé, e non solo Gomorra. Mi riferisco in particolare al pezzo che è stato pubblicato qualche giorno fa da Variety.com. Di solito definiamo Variety una delle bibbie dello spettacolo, con queste frasi fatte che si usano spesso. La Golden Age, l'età d'oro della TV, ha ambizioni cinematografiche. Pezzo firmato da Nick Vivarelli, corrispondente internazionale di Variety. Un pezzo in cui si dice sostanzialmente che la qualità delle serie televisive italiane è talmente alta che non solo ha, come dicevamo, ambizioni cinematografiche, ma sarà esempio nei prossimi anni di grandi serie televisive, come lo sono stati in questi anni ad esempio Israele e la Scandinavia, dalle quali sono nate moltissime serie TV che sono state rifatte, che sono state, insomma, che hanno girato il mondo e che sono sbarcate negli Stati Uniti. Insomma, una bella incoronazione per quanto riguarda il Made in Italy nelle serie televisive. Ma sarà davvero così? Noi ne parliamo con uno dei nostri carissimi amici del Sabato del Villaggio. È tornato in diretta con noi Gabriele Niola. Ciao Gabriele. Ciao Marta. Eccolo qua, espertissimo di cinema, chiocciola Giniola per seguirlo su Twitter, così scoprite anche tutte le sue recensioni nel blog Sono Vivo e Non Ho Più Paura, che così se lo trovate via Twitter è più facile trovarlo. Io sono sempre d'accordo con le sue recensioni, quindi se leggete quello che pensa lui, di solito sapete anche quello che penso io. Gabriele, un'affermazione pesante quella che ha riportato Variety, Golden Age, età d'oro delle serie TV, tu cosa ne pensi? Sì, hai ragione da morire, è un'affermazione molto pesante ed è figlia del fatto che Variety è una testata americana, che in America in questi ultimi anni finalmente hanno cominciato a ricevere i nostri prodotti in maniera seria. Ovviamente parliamo di TV, parliamo di Romanzo Criminale che ha aperto la strada, di Gomorra e poi di Young Pope, che non solo Young Pope è la serie di Paolo Sorrentino sul giovane Papa con Jude Law. Con Jude Law, sì, che stanno girando adesso, insomma. Certo. Quella serie non solo sappiamo che verrà mandata anche in America, ma è prodotta dagli americani, cioè è della HBO e sono gli stessi del Trono di Spade. Quindi gli americani hanno deciso di investire in una cosa, sarà in lingua inglese veramente, ma insomma girata in Italia, diretta da un italiano, insomma è quello che a tutti gli effetti è un prodotto italiano. Ecco, noi abbiamo citato Gomorra, che arriverà Young Pope, quindi HBO, e andrà su Sky, e poi loro citano Crime Novel, cioè che poi è romanzo criminale, e 000, che sarà 000. C'è molto Sky però in questo pezzo di Variety. Ma chi ci deve essere? Sai com'è? Noi non conosciamo bene i canali americani, cioè sappiamo benissimo in Italia la differenza che c'è tra un canale come Canale 5, un canale come Rai 1 e poi Sky. Mentre invece abbiamo meno confidenza con i canali americani, però il concetto è sempre quello, cioè sono le reti tematiche, e quindi da noi a pagamento, ma anche in America, che possono usare di più. I canali come Rai 1 e come Canale 5 hanno un'altra missione proprio. Certo, se io parlo personalmente, a me piace meno le serie TV che si fanno sul Canale 5 e sul Rai 1, però so che sono dedicate all'identità nazionale, le vite dei santi, le vite dei presidenti, le grandi biografie, i racconti che rispecchino un certo tradizionalismo, mentre invece è missione di altri canali fare altro. Se, e dico se, reti generaliste un pochino più tematiche, come per esempio Italia 1, che comunque è una rete generalista però ha un'identità specifica, producessero serie TV, forse sarebbero un pochino più simili a quelle che vediamo su Sky. Sky invece si permette di essere estremo perché è a pagamento, è per pochi. E poi con il fatto che Sky è comunque una piattaforma internazionale, forse la vocazione internazionale insomma ce l'ha anche più per quello natura. Sicuramente, un certo tipo di mentalità sicuramente. Per quanto poi ricordiamoci sempre che Sky è un emittente che mette in onda, ma le persone che materialmente producono, quindi spendono denaro per girare Gomorra o Romanzo Criminale, sono le stesse identiche persone che poi producono anche le commedie che vediamo al cinema. Cioè è una casa di produzione che si chiama Cattleya e sia al cinema che alla TV, quindi diciamo che le persone sono quelle. Poi sanno che esiste nel panorama nazionale qualcuno che gliele manderà in onda, effettivamente, perché sappiamo bene che Gomorra non andrebbe in onda se non esistesse Sky. Certo. Tra le produzioni invece delle reti generaliste mi viene in mente in realtà Montalbano, che è quello che è stato forse più venduto all'estero. Anche lì identità nazionale, ma forse il bello dell'Italia che piace anche ad esportazione. È più facile esportare Montalbano che appunto le vite dei santi, dei papi o degli stessi eroi di mafia, purtroppo. Sai che dice? In realtà, guarda, è vero quello che dici, perché il crimine poi vince sempre. Però c'è un'altra cosa che mi ha detto una volta Pietro Valsecchi. Pietro Valsecchi è un grande produttore italiano che produce sia Distretto di Polizia sia Checco Zalone, quindi comunque è uno, anche un produttore insomma, di grande successo. Ha detto che il locale è globale quando si parla di questo tipo di prodotti, cioè che più sono locali, più fanno appello a delle realtà piccole, quindi sia Montalbano, la Sicilia molto caratteristica, sia anche Gomorra, che pure per noi, anche noi italiani a volte abbiamo sottotitoli, più certo. Sono internazionali poi. Ah, quindi il locale vero vende bene, questa è una bellissima affermazione. Se pensi pure sì. A un'altra serie molto di successo che è Narcos, certo. C'è tanto, proprio perché è tanto locale, è tanto specifica, parlata in spagnolo, insomma in realtà non è spagnolo, ma insomma parlata in quel tipo di lingua dei veri boss. Allora, qualche istante fa ho detto eroi di mafia, mi sono resa conto che non suona tanto bene, perché però si capiva cosa intendevo dire. Voglio parlare anche un po' di cinema. Tra qualche giorno, dal 13 al 24 aprile, inizia il Tribeca, il festival newyorkese fondato da Robert De Niro ogni anno. Io mi riprometto di andarci, prima o poi nella vita ci andrò a vedere questo festival. Ci sono un po' di cose legate a questo festival, in particolare, intanto fatemi citare questa cosa carina, Rockin' 1000, non so se vi ricordate quando mille musicisti avevano suonato allo stadio di Cesena per invitare i Foo Fighters a Cesena e c'erano riusciti. Allora, Rockin' 1000 sarà a New York il 22 aprile per ricevere il Tribeca Disruptive. Adesso mi sto incartando, Tribeca Disruptive Innovation Award, quindi intanto complimenti a loro. Tribeca a questo festival ci sarà Perfetti Sconosciuti, e a un certo punto è girata anche la voce, Gabriele, che questo film, che ha avuto un successo pazzesco, soprattutto un successo crescente di settimana in settimana, potrebbe arrivare anche all'estero e essere distribuito all'estero. Non so quanto sia vero, tu che fonti hai? Allora, guarda, in realtà, diciamo in maniera totalmente non ufficiale, è abbastanza chiaro che è vero, cioè è un film italiano che ha riscosso interesse dai produttori e distributori stranieri, quindi alcuni vogliono comprarlo per distribuirlo nei loro territori, altri vogliono proprio fare un remake, rifarlo. Però diciamo che non esistono notizie certe e vere, perché chi lo vende, cioè chi l'ha prodotto e chi lo vende, ancora non ha detto, non ha fatto uscire nulla di ufficiale, quindi insomma ufficialmente non la si può dare, però diciamo che beh, un'ottima notizia. I pettegolezzi vogliono che... Ecco, per una volta i pettegolezzi sono favorevoli. Ah, tra l'altro non vi ho ancora dato le coordinate per raggiungerci, ma tanto le conoscete: il numero per SMS e WhatsApp 349-238-6666, il mio account di Twitter @MartaCagnola, come sempre siamo in diretta, quindi ci trovate senza problemi. Bel periodo però per il cinema italiano, non solo perché ci sono stati dei buoni incassi in questo periodo, ma anche perché mi sembra che stiamo parlando sempre più di film di un certo interesse. Tu cosa ne pensi, Gabriele? Lo chiamavano Gigrobot, questo fine settimana esce Veloce come il vento, che a me è piaciuto veramente tanto, abbiamo parlato anche la scorsa settimana, io sono una grande fan di questo film di Matteo Rovere. Cosa diciamo di questo periodo del cinema italiano? Guarda, siamo tutti felici, non si può che ma anche a prescindere dai gusti, no? Comunque che si facciano più cose diverse, che queste cose diverse vadano anche bene, non può che essere bene, no? È chiaro che l'offerta più grande conviene a tutti, però non pensiate che è un caso. A gennaio, quando ogni anno il cinema italiano presenta i risultati dell'anno precedente, no? Come era andato il 2015, certo, quanto certo abbiamo incassato, quei numeri com'è, che ci piacciono tanto, esatto, percentuali, numeri grafici. A un certo punto i produttori, infatti proprio l'associazione produttori italiani, insomma la cosa proprio ufficiale, hanno detto che loro sanno benissimo che c'è un problema, che il cinema italiano sta un po' perdendo quota, cioè le persone vanno più a vedere i film stranieri che gli americani, che gli italiani, e che questa quota la sta perdendo perché il pubblico ovviamente cambia, no? Cioè certo, il pubblico anziano va morendo e il pubblico giovanile va crescendo, ovviamente, e hanno perso il pubblico giovane, cioè i giovani preferiscono i film stranieri, sappiamo tutti quanti che tipo di film, no? Quelli che incassano di più. Quindi l'obiettivo adesso del cinema italiano sta cambiando e andando nella direzione di prenderli. Un primo tentativo, ce lo ricordiamo tutti, fu più di un anno fa, Il ragazzo invisibile. Salvatore, sì, il primo film, esatto, fantasy, no? Sì. Un film di supereroi, sostanzialmente, sì, sì, che era andato un po' così così. Loro pensavano un po' meglio, Non è andato male, però pensavano un po' meglio. Devo dirti anch'io, perché il film era di ottimi ottime premesse. Invece un po' li ha delusi il risultato del cinema, però diciamo che poi con la TV si è ripreso, però insomma in buona sostanza quello era un primo approccio, e poi hanno cominciato diciamo ad approvare, a voler fare, a dare fondi a film come, lo chiamavano Gigrobot, che in realtà se l'è prodotto da solo il regista, e poi anche dopo con un po' di fatica sono saliti sul carro del vincitore un po' tutti, però insomma comunque diciamo che è andata bene, Veloce come il vento, insomma, e altri ne arriveranno, per cui sì, sicuramente il cinema italiano ha deciso di puntare in quella direzione, riprendersi quel tipo di pubblico. Beh, ottima notizia. Devo fare un'ultima notazione importante: dall'11 al 14 aprile biglietto a 3 euro per i Cinema Days, biglietto a 3 euro tranne per i film in 3D, che però costano solo 5 euro, quindi un'ottima occasione per andare a recuperare un po' di film, magari proprio questo Veloce come il vento, che a me è piaciuto moltissimo. Margherita ci manda un messaggio e dice: Variety parla di età d'oro per i film televisivi italiani perché li doppiano e non sentono come recitano gli attori. Non lo so, a parte che non credo che vengano. Gomorra sicuramente non era doppiato, era sottotitolato, ma no, non era poi gli americani non doppiano non nulla. Non doppiano nulla, quindi non è tradizione. Ogni tanto qualche cartone animato, ma insomma poche cose. Di certo i film o le serie TV poi assolutamente no. E poi ancora Sofì, romanzo criminale, Gomorra, grandi produzioni italiane, nello stereotipo di italiano mafia non c'è di che gloriarsi. Devo dire che anche il cinema italiano ha sempre dato il meglio nei periodi difficili e parlando di storie difficili, quindi forse Sofì invece... Beh, diciamo che poi comunque no, gli americani ci fanno vedere storie come House of Cards, in cui certo, non vengono fuori bene neanche loro, ammazzano gente, insomma, oppure appunto abbiamo citato Narcos, diciamo che anche loro non si fanno buona pubblicità, siamo in buona compagnia. Però Sofì aspetta una Downton Abbey italiana, beh, chissà. chissà, qualche tentativo è stato fatto, male, qualche tentativo è stato fatto. Gabriele, grazie per essere stato con noi. Gabriele Niola, critico cinematografico, seguitelo su Twitter, Giniola, che così trovate anche il suo blog con tutte le recensioni, comunque anche se googlate "sono vivo e non ho più paura" lo trovate. Grazie Gabriele di essere stato con noi, a presto. Ciao. Sorridiamo perché il titolo del blog è molto difficile da scrivere, ma ce la possiamo fare, ci ritroviamo tra pochissimo dopo il traffico. Il sabato del villaggio. E allora soprattutto per chi ci sta ascoltando da Roma, magari è incolonnato, seguiremo la situazione con i nostri appuntamenti con la viabilità e sul sito radio24.it, appunto, con la mappa interattiva del traffico. Accidenti, che brutto rimanere così incolonnati sul raccordo. Beh ragazzi, forza, sabato pomeriggio poi si arriverà alla meta del weekend o del relax. Noi siamo pronti per partire per la capitale del vino in questi giorni, Verona, Vinitaly, e noi introduciamo il nostro breve viaggio così. It's my new obsession. Yeah, think it's not even a question. Think on the lips of your lover. Cause think is the love you discover. Pink It's My New Obsession, il rosa è la mia nuova ossessione, e mi sa che non è solo per le labbra dell'amata, le ciliegie, insomma tutte le cose di cui parlavano gli Aerosmith, ma anche nei vini. E quindi cominciamo a parlare di tendenze di vini, perché nei prossimi giorni anche Radio 24 trasmetterà molto da Vinitaly, non possiamo che parlarne con il nostro gastronauta Davide Paolini. Ciao Davide! Ciao, ciao, e diciamo subito che io oggi parlerò di vini e di questa tendenza pink, ma poi la prossima settimana racconterò un po' quello che è successo al Vinitaly, per cui in un certo senso dico tendenza rosa e magari la prossima settimana dirò no, no, a Verona è successo questa. Beh, no, magari appunto cioè Vinitaly ci dà le tendenze future, quindi magari scopriremo, certo, che si sta cambiando l'aria, però per il momento è rosa. Diciamo che la tendenza rosa è nel pubblico, è nel consumatore. Probabilmente a Verona vengono fuori le tendenze di lì a qualche mese, che sono per addetti ai lavori, quindi molte volte non si incrociano queste due tendenze, e quindi io vi do la mia, poi vedremo, poi vi racconterò anche, visto che domani partirà al Vinitaly, dove andare a mangiare a Verona. Ah, ma certo, sì, ma anche quello è importante. Però ti chiedo subito, Davide, un tempo quando si parlava di rosé si storceva un po' il naso. Il rosé era un po'... Ma perché invece adesso abbiamo subito cambiato idea? Si storceva il naso perché l'opinione pubblica pensava che fosse vino rosso mescolato col vino bianco. Ah, in realtà non è assolutamente così, e ti dico subito che ad esempio il Chiaretto, che è quello di cui vi parlo subito, che è quello che ha lanciato questo slogan Revolution Rosé o Rosé Revolution, è ottenuto da due uve rosse che sono il Corvina Veronese e la Rondinella, che sono le stesse poi che entrano nel disciplinare dell'Amarone, e sono ottenute, come si dice, vinificando in bianco. Quindi a questo punto si ottiene un blanc de noir, quasi un blanc de noir, cioè dei vini quasi bianchi, appunto, che sono ottenute da uve rosse. Ma non c'è da meravigliarsi, perché se tu bevi uno champagne, nello champagne c'è sempre lo champagne lo vedi che è giallo, quindi bianco, eppure dentro ci sono delle uve rosse, certo. Quindi è una tecnica di produzione, ma molti credevano che fosse come per così dire un pateracchio, ecco, che gli scarti di vino rosso andassero in mezzo al vino bianco. Ecco, questo è il problema, forse per questo, ma anche perché, siccome di vini si è sempre parlato rosso e bianco, e la gente forse ha pensato che questo fosse una diminuzione, cioè che fosse una terza scelta probabilmente di scarto. Ma oggi invece sta emergendo, ma è emersa soprattutto, forse sono stati gli champagne che hanno anche aperto questa strada, perché quando uno champagne rosé va di moda, tutta la gente lo champagne lo vede come un prodotto cult, e quindi tutto hanno pensato a una rivalutazione. E devo dire che ci sono degli champagne rosé straordinari. Quindi, guarda, ti dico che da femmina mi piace così tanto lo champagne rosé, è molto chic servirlo. Ma, ecco, guarda, ti dirò che tutti pensano immediatamente rosé donna. Io non sono molto d'accordo, perché, anzi ti dirò di più, che osservando molte volte in un'enoteca dove si beve e si mangia magari quattro cose durante gli aperitivi, vedo molte donne che bevono vino rosso. Cioè non è che ordino un bianchetto diciamo molto leggero, no, bevono vino rosso. Anzi, io credo che se si andasse a fare una ricerca di mercato, probabilmente io sono convinto che le donne preferiscono rosso. Non lo so, posso sbagliarmi, però dalla mia esperienza, e anche così che mi capita molte volte di cenare, di mangiare con donne, vedo che vanno decisamente sul vino rosso. Anch'io, quindi, confesso. Diciamo che è un luogo comune che sta sempre più scomparendo. Ma devo dire una cosa, che probabilmente ci sono tendenze nella società che riguardano magari la moda, riguardano il design, ed altro, che poi, guarda strano, combinano con il vino. Bene, io ho letto l'altro giorno che c'è un colore di capelli, si chiama rose gold, che è il colore che va di moda appunto sui capelli delle donne, quindi guarda strano, questo si ripercuote anche sulla Rosé Revolution, ed è portata avanti, dicevo prima, da questo vino chiaretto che nel giro di pochi anni produce oggi quasi 9 milioni di bottiglie. È veramente un fenomeno molto molto interessante, anche perché fa seguito ai vini rosati storici del Salento. Diciamo che il rosato è nato prevalentemente nel Salento ed è una caratteristica della Puglia. La Puglia ha moltissime produzioni di questo vino, ma diciamo che questi vini del Salento sono, come posso dire, un po' più per gli intenditori, mentre non è che il chiaretto sia un vino da buttare, però è diventato moda, probabilmente hanno lavorato, e soprattutto questa moda ha rimbalzato anche negli Stati Uniti, perché in Florida il chiaretto è diventato un vino cult, e pare che a Miami il magnum di chiaretto vadano a delle cifre veramente interessanti, si parla di 300 euro, quindi è diventato un po', come posso dire, un altro nostro ambasciatore di vino, sicuramente molto meno impegnativo dei nostri grandi vini, però così come il Prosecco è un altro vino con dimensione molto limitata. Ho parlato del chiaretto di 9 milioni di bottiglie, non so, forse tutti i rosé in Italia faranno 30-35 milioni, però è una tendenza molto importante che va bene, specialmente d'estate. Perché? Perché questi vini sono profumati, sono freschi, e c'è questa particolarità che per attirare l'attenzione del consumatore devono avere un colore che è vicino al lici, al frutto, certo. Guarda strano, e devono avere un profumo e un sapore di agrumi. Queste sono le caratteristiche, e appunto è diventata questa tendenza, questa revolution rosé, che già anche trovare dei nomi secondo me è sempre molto importante, perché fa molto gioco. Stavo intanto guardando questo sito chiaretto.pink, che è un sito proprio fatto per gli americani, che spiega cos'è, quindi esattamente nella linea che stavi dicendo tu, insomma. Sì, cioè pink significa molte cose per gli americani, quindi Pink Rose, diciamo che è un qualcosa di molto molto molto intrigante. Quindi ecco, vedi, molte volte ci sono questa, diciamo, le tendenze tirate da un qualcosa di particolare, magari dei vini straordinari da anni che soffrono e in realtà non hanno questo slancio. Ma ora Davide, andiamo a fare un giretto a Verona, che così scopriamo dove andare a mangiare in questi giorni in cui andremo a Vinitaly. Io purtroppo no, ma lo dico ai colleghi che ci saranno. Va bene, guarda, innanzitutto se uno va a Verona verso le 6:30 in Piazza delle Erbe o negli altri bar, vede tutto rosa, un rosa particolare, sai cos'è? È lo spritz. perché in quella città a quell'ora tu vedi non so quanti migliaia di calici che sono pieni di spritz, perché Verona è una città che è molto godereccia, secondo me una delle città più goderecce, quindi si comincia dall'aperitivo anche quando non c'è il Vinitaly. Però cominciamo da una serie di indirizzi. Allora, per chi va al Vinitaly non può non mettere piede all'antica antica bottega del vino, mm-hmm. È un'istituzione, è un'enoteca dove si mangia, che ha 125 anni di attività, quindi non ti dico altro, dentro ci sono ancora delle cose veramente del passato, cominciare da delle lampade ed altri particolari. È un posto importante, per tutta una serie di motivi, è un punto di raduno, ma anche un punto dove ci sono ben 4.000 etichette. Le cantine sono straordinarie, ecco, una volta bisogna assolutamente andare in queste cantine per vedere appunto questa magnificenza. E poi uno, chissà che patrimonio, effettivamente. È un patrimonio. Poi ci sono queste lavagne, appena entri dentro a questo bancone storico, dove ci sono circa 40 etichette che tu puoi bere a calice. Quindi diciamo un'espressione moderna, ma qui c'è sempre stata. Si bevono anche grandi vini a calice, quindi non c'è bisogno di investire su una bottiglia. Poi si mangiano delle cose molto semplici ma ben fatte. Ad esempio la pasta e fagioli e il baccalà sono due cult di questo posto. Anche i ravioli di zucca e anche l'insalata di gallina. Quindi è un posto anche che diciamo si mangia discretamente, si beve molto bene con 40 euro. Quindi non è che c'è un posto da dilapidarsi. Poi io ho un debole per Mondodoro. Mondodoro è un ristorante che in via Mondodoro, si chiama così non perché è stato dato questo nome, ma proprio perché si trova in questa piazzetta. Il patron è uno dei più grossi conoscitori di vino e di cibo e di prodotti, e si chiama Stefano Sganzerla. Lui dopo anni aveva anche diretto l'antica bottega del vino, ma anche altri locali che poi citerò. Si è creato questo suo ristorante, molto semplice ma elegante nella sua semplicità. E qui c'è una carta dei vini molto personale, particolare, ma io la consiglio perché è sempre all'avanguardia Stefano, quindi fa sentire, fa assaggiare dei vini che magari non trovi da altre parti, però dopo qualche anno te li trovi un po' in tutte le carte dei vini. Qui una cosa interessante è il risotto con i carletti. I carletti sono un'erba che poi si chiama in diverse maniere in giro per il Veneto e anche in giro per altre regioni. Poi si mangia delle insalate, ecco, delle insalate in cui c'è una grande cura, dove lui va ad acquistare germogli, varie tipologie di insalate. E poi si mangia un piatto che è ormai un cult, che è l'insalata di gallina nostrana alla Stefani. Stefani è questo cuoco che ha scritto un ricettario che molti chef ancora utilizzano, nonostante siano passati 400-500 anni. Poi si mangia del pesce di lago e anche di mare, e come dicevo la carta dei vini è quella che ho detto prima. È un ristorante che io ritengo eccezionale nella normalità. Ma sono tante le scelte a Verona. Io un'altra scelta che indico è la locanda dei quattro cuochi. E dunque faccio una premessa. Giancarlo Perbellini, che è uno chef, ha creato ben quattro ristoranti, uno diverso dall'altro a Verona. Io le consiglio tutti perché c'è Casa Perbellini, che è il ristorante gourmet, assai difficile da trovare posto perché ha poche sedie, come si dice, quindi però chi ci riuscisse, prenotando in anticipo, è un luogo dove andare. Poi ha una locanda dei quattro cuochi, che è un posto che io ritengo molto adatto familiare, nel senso che è molto semplice, i cuochi servono, prendono la comanda, ci sono piatti molto semplici come il pollo arrosto, ci sono una serie di primi piatti, si sta molto bene e c'è un imperdibile millefoglie allo stracchino, lo stracchin come dicono a Verona. Sul millefoglie autosussulto. Poi ancora al pompiere ci sono le tovaglie a quadrettoni, foto storiche alle pareti, è una vera salumeria con 40 tipi di insaccati. e oltre 80 formaggi, però non è solo questo, perché anche qui ci sono dei primi molto buoni e ci sono dei piatti caldi che sono, fanno parte della tradizione, come il fegato alla veneziana, oppure ritorniamo alla pasta e fagioli, che è sicuramente una cosa che torna spessissimo. Poi ancora, per chi invece volesse mangiare pesce, non ho dato notizia di pesce, c'è l'oste scuro. L'oste scuro è a pochi passi dal Castelvecchio, che qui si valorizza appunto una cucina di mare molto fatta bene, il cuoco è molto bravo e conosce molto bene, il pescato è sempre fresco, e che, un piatto che ricordo sono gli sgombri al macis con purea di zucca. Ecco, questo è un piatto che mi ricordo di averlo mangiato più volte, ma è sempre nella mia memoria. Poi ce ne sono altri, ma te li cito velocemente. Sì, perché stiamo rubando spazio a Enrico Pagliarini, perché sono okay. Già le 15:31. Dammi allora, ancora un flash. Che è un locale storico, il desco di Elia Rizzo, locale storico stellato da tantissimi anni. Ora in cucina non c'è più Elia, ma c'è il figlio Matteo che segue le orme del padre su una cucina creativa, ma diciamo creativa, ma non tanto, però diciamo che non è la cucina tradizionale del territorio solita che si trova a Verona. Ho finito. Grazie Davide, allora buon viaggio a Verona. Noi ci troviamo la prossima settimana con il tuo reportage da Vinitaly. Lo aspettiamo. Grazie ciao, Davide, presto. A presto. Ciao, noi ciao. Ci troviamo tra pochissimo, c'è lo spazio delle tecnologie con Enrico Pagliarini. Il sabato del villaggio. London Calling, chiamiamo Londra. Beh, adesso non è più a Londra, però era Londra. Ci deve raccontare alcune cose che sono successe a Londra. Buongiorno Enrico Pagliarini, ciao Enrico. Buongiorno, ciao a tutti. Beh, chi lo ma sa sembra che sei qui in studio con me, ma non, sei, non lo so in realtà dove no, sei. Magari no. Sei a Londra, non lo so no, io. Non ancora, no, siamo no. Allo stesso fuso orario. Non ancora o non più, perché questa settimana esatto. Tu sei stato a Londra. Sì, per qualche ora, perché c'è stata una presentazione mondiale di un'azienda cinese che si chiama Huawei. Ed è una presentazione di uno smartphone, diciamo, dopo Samsung, dopo Apple, è stato il momento questa settimana di Huawei. Allora, molto probabilmente se tu scendi in strada e chiedi come si scrive Huawei, non so quanti, insomma, stiamo parlando di un brand però che è diventato molto noto negli ultimi tempi perché in pochissimo tempo è diventato il terzo produttore mondiale di smartphone, azienda cinese gigantesca, che vende molto anche in Italia. Addirittura ci hanno detto questa settimana che il mercato italiano è il secondo più importante dopo quello cinese per accidenti. Huawei. Accidenti. Sì, quindi pare che in Italia le cose vadano molto bene. Che cosa ha presentato Huawei? Allora, una cosa che ci permette di raccontare un trend nel mondo degli smartphone. Oramai le invenzioni che si possono fare attorno allo smartphone non sono più tantissime. C'è chi attende la batteria dalla durata infinita, però purtroppo quella ancora non l'abbiamo vista. No. Anche se effettivamente negli ultimi prodotti quasi tutti i produttori hanno presentato soluzioni che ci fanno stare tranquilli per la giornata. Addirittura c'è chi dice che alcuni smartphone, soprattutto quelli un po' più grandi, dove ci si può permettere di mettere una batteria un po' più grande, permettono di fare quasi 2 giorni, e quindi qualcosa si è fatto. Però il trend di quest'anno, comunque degli ultimi mesi e anche dei prossimi mesi, è migliorare la qualità dell'immagine. È una cosa su cui si sono cimentati altri. Dell'immagine, cioè delle fotografie? Delle fotografie, esattamente, sì. Ricorderete gli anni mitici di Nokia e poi anche con Microsoft per la serie Lumia. Lumia ha sempre puntato molto sull'immagine e sulle fotografie. Allora, che cosa ha fatto Huawei? Huawei si è rivolta a un nome molto famoso, molto noto nel mercato delle fotocamere professionali, la tedesca Leica, che è uno dei grandi appunto brand del mondo della fotografia, e assieme agli ingegneri tedeschi hanno sviluppato un corpo a doppia fotocamera, quindi nella parte posteriore, nella parte anteriore, quella che noi guardiamo col display, c'è la fotocamera per i selfie, no? Certo. Nella parte posteriore normalmente c'è una fotocamera, un sensore, un obiettivo. In questo caso c'è invece una doppia fotocamera. Non è la primissima volta che un produttore utilizza questa soluzione. Già HTC e LG in passato hanno utilizzato la doppia fotocamera per fare cose un po' diverse. Ad esempio LG, di cui abbiamo parlato recentemente, in uno degli ultimi prodotti, il G5, utilizza la doppia fotocamera per allargare la panoramica, quindi si possono fare panoramiche e fotografie con un angolo di visuale molto più ampio. Allora, in questo caso invece la scelta che è stata fatta è quella di utilizzare questa doppia fotocamera per migliorare proprio la qualità dell'immagine, soprattutto in condizioni dove gli smartphone non sono molto capaci di fare fotografie, cioè quando c'è poca luce, vero, quando la sera, quando ci sono le nuvole, le foto ci vengono sempre un pochino meno bene con lo smartphone. Esattamente, oppure anche in condizioni, immaginati di essere in una stanza abbastanza buia e inquadrare una finestra, quindi è una condizione in cui ci sono alcune parti dell'immagine, della scena, con molta luce, quindi la finestra dalla quale entra molta luce, e invece nella stanza, nel resto della stanza non c'è moltissima luminosità. Ecco, in queste condizioni questo telefono con questa soluzione sicuramente offre una capacità di fare fotografie molto buona. Direi che oggi, almeno vedendo anche le prove che sono state fatte in questi giorni dai più esperti di fotografie, possiamo dire che nel mondo Android, ma in generale nel mondo degli smartphone, questo è il telefono, si chiama P9, non l'abbiamo ancora detto, P9, Palermo 9. In realtà poi sono due telefoni, ce n'è uno con una versione a 5,2 pollici, col display 5,2 pollici, e il Plus, perché ormai tutti fanno la seconda versione un po' più grande, a 5,5 pollici. E la caratteristica, non è l'unica caratteristica che è stata naturalmente presentata con questo smartphone, però hanno speso molto tempo assieme ai tedeschi di Leica per parlare di questa capacità. Adesso io ho riassunto tutto dicendo che la caratteristica principale è riuscire a fare fotografie, certo, soprattutto in condizioni difficili. Poi in generale è un sistema di fotocamere migliore, quindi riesce a fare fotografie migliori. Hai parlato di dimensioni, visto che stiamo parlando un po' di trend, anche perché le varie presentazioni ci permettono anche di capire dove andranno a finire i telefonini. Sì. Ho una curiosità, perché in questi giorni ho sentito parlare invece di Apple che ha ritirato fuori le vecchie dimensioni, sì, più contenute dell'iPhone 5, cioè si torna anche ai telefoni più piccoli. Spiegami un po'. Sì, perché esatto, c'è stata una tendenza negli ultimi tempi a fare smartphone sempre più grandi, soprattutto in Asia. I consumatori asiatici e di conseguenza anche i produttori asiatici, coreani e cinesi, hanno proposto sul mercato smartphone con dimensioni di display molto più grandi. Stiamo parlando di cose che vanno dai 5 ai 6 pollici, grosso modo. Apple era rimasta un po' indietro fino all'anno scorso, fino a quando poi è stato introdotto il nuovo smartphone, il 6, l'iPhone 6. Ecco, invece ultimamente Apple ha presentato l'SE, che è questo nuovo smartphone, che ha le dimensioni in tutto, anche il design, in tutto e per tutto del 5. Quindi con questo display da 4 pollici, poco più di 4 pollici, che in effetti torna un po' indietro. Perché? Perché sul mercato ci sono un sacco di consumatori che, così come sono interessati a delle belle fotografie, ai quali si rivolge evidentemente Huawei, ci sono molti consumatori invece che sono interessati a dimensioni dello smartphone non tanto grandi, ed è lì che va a puntare Apple con questo prodotto, che tra l'altro ha anche un prezzo un po' più aggressivo rispetto al 6, e quindi sicuramente può accontentare molti più consumatori rispetto alla gamma attuale. È sicuramente una scelta interessante. Beh, se ti devi mettere lo smartphone in tasca, penso soprattutto agli uomini, magari nella tasca della giacca, addirittura nella tasca dei pantaloni. Sì, sì, sì. Noi andiamo in giro con la borsa, quindi è un po' meno problematico. Sì. Poi c'è, diciamo, chi non ha le mani grandissime, ha anche un telefono con il quale si può fare tutto con un dito. Certo. Col pollice uno fa praticamente tutto. Effettivamente è un'ottima scelta. Poi il mercato deciderà. Enrico, 15:45, 31 secondi. Andiamo ad aggiornarci sul traffico, anche perché la situazione era abbastanza problematica attorno a Roma. Andiamo a sentire come sta andando e ci troviamo ancora tra pochissimo. Il sabato del villaggio. E rieccoci con Enrico Pagliarini. Enrico, c'è ancora qualcosa da dire su questi telefonini, visto che appunto le tendenze sono abbastanza inesauribili? È quello che è venuto fuori questa settimana. Sì, potremmo dire il prezzo, giusto per avere un'idea. Stiamo parlando di top di gamma, e quindi naturalmente i prezzi sono da top di gamma. Abbiamo detto che sono due i modelli del P9. Il modello chiamiamolo base, diciamo così, parte da 599 euro, è disponibile dal 21 di aprile, e 749 invece per il modello da 5 pollici e mezzo, quindi è sicuramente un prodotto più grande, più completo, insomma costa un po' di più. Beh, insomma, diciamo che i prezzi per quello che appunto si dice alto di gamma sono più o meno quelli lì. Poi ci saranno probabilmente anche delle offerte degli operatori di telefonia, quindi magari uno annega nell'abbonamento anche il costo dello smartphone. Dunque, prima di parlare dell'app della settimana, volevo fare una parentesi. Allora, a livello tecnologico, una delle cose più straordinarie che ho visto nelle ultime ore, e consiglio a tutti gli ascoltatori ad andare a vedersi su internet le immagini. Allora, SpaceX, che è una società che lancia razzi nello spazio, sta veramente rivoluzionando il settore, ha fatto atterrare per la seconda volta, ma per la prima volta su una piattaforma nell'oceano, un razzo, perché uno degli obiettivi di SpaceX è riutilizzare almeno uno stadio di un razzo per far abbassare il costo dei voli spaziali. E uno dice, vabbè, è una cosa che non mi interessa. No, in realtà la buona parte della nostra vita dipende da quello che c'è nello spazio, satelliti e tutto il resto. Poi probabilmente per i più giovani possiamo aspettare fra qualche anno anche un boom del turismo spaziale. Quindi è sicuramente una pietra miliare nel mondo dello spazio. Abbiamo due minuti per parlare dell'app della settimana. Andiamo nello spazio anche per l'app? O no? Rimaniamo per terra? No, mi volevo rivolgere a tutti quelli che adesso sono in coda in autostrada, avrebbero potuto prendere il treno. Allora, questi mi tireranno qualche cifra. Esatto. Allora, questa settimana è stata presentata una applicazione servizio, cioè anche sul web, che si chiama Captain Train. Noi probabilmente siamo abituati ad utilizzare servizi per confrontare i voli e i prezzi delle tratte aereo, del trasporto aereo. Per i treni uno doveva andare sul sito di Trenitalia o di Italo, oppure delle compagnie locali che ci sono in giro per l'Italia. Allora, Captain Train fa esattamente questo per i treni. Si possono anche acquistare biglietti multitratta, cioè io mi prendo un pezzo di Italo e magari un pezzo di Trenitalia. È una soluzione interessante che uno può provare. Beh, no, mi piace Train, molto, mi piace il capitano molto del treno. Enrico, grazie per questo approfondimento. Intanto ti dico che al 349-238-6666 è arrivato il messaggio di Ivana da Bergamo, che dice che ascolta 2024 e dice che le piacerebbe riascoltare di notte, perché dice sì, c'è il podcast ma mi piace ascoltarlo di notte. Vabbè, sono arrivati dei complimenti per te, quindi prendiamo nota. Quindi te li passo. Vabbè. Adesso è il momento di parlare di cinema. Enrico, stai all'ascolto, perché visto che sei un appassionato, senti un po' cosa sta arrivando questo fine settimana. Al prossimo sabato, Enrico, ciao! Se la storia di Biancaneve voi conoscete, ciò che accadde prima, ora scoprirete. Per lenire il dolore della perdita, la regina buona rinchiuse il suo cuore in una fortezza di ghiaccio. Non potendo allevare una figlia, avrebbe allevato un esercito. E qui al Sabato del Villaggio è come sempre il momento dei consigli per il weekend al cinema. Abbiamo già sentito da questo brevissimo trailer un primo suggerimento dal nostro Franco D'Assisi. Sentiamo subito di cosa si tratta. Ciao Franco. Ciao Marta, ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori. Sì, Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio è sicuramente uno dei film di questa settimana che ha le maggiori possibilità in termini di botteghino. È un po' spin-off, un po' sequel, un po' prequel, non si capisce bene. Diciamo che sta dentro nell'universo espanso di Biancaneve. C'era stata Biancaneve e il Cacciatore, lo ricorderete. Qui ritroviamo alcuni di quei personaggi e di quegli attori, primo di tutti Chris Hemsworth, poi anche Jessica Chastain, Emily Blunt, Charlize Theron, come dire, cast è sicuramente ben messo. Non troviamo Biancaneve e questo fa già abbastanza strano, un film comunque di quell'universo che non vede la sua protagonista. E soprattutto c'è una similitudine con la trama vera e propria di Frozen, del cartoon, del film d'animazione Disney di maggior successo probabilmente degli ultimi anni. Tra l'altro a Broadway stanno preparando un musical per il 2017-2018. Ebbene, praticamente la storia di due sorelle, una delle quali un po' incattivita prende, si separa, va a vivere da sola nel regno del ghiaccio, vi dice niente. Ecco, c'è quasi una fretta, mi sembra di vedere, nel cavalcare comunque un'onda lunga che è molto presente soprattutto nelle bambine di tante età, diciamo, anche nelle adolescenti, prima che poi arrivi anche la Disney a fare un film su quello che inevitabilmente arriverà in carne ed ossa. E allora non spicca per originalità questo film Il cacciatore e la regina di ghiaccio, però le atmosfere sono quelle, sicuramente è una visione che si può fare anche in famiglia. Io sono una grandissima fan di Sacha Baron Cohen, ecco, lui non è tanto per famiglie, ma non ho ancora visto Grimsby. Cosa faccio, vado a vederlo o no? Guarda, hai detto bene, non è per famiglie, mi veniva da ridere mentre lo dicevi, perché questo è meno per famiglie di molti altri secondo me. Allora, parliamoci chiaro, è un film dove non portare i bambini e secondo me andarci, io adesso non ho neanche guardato che tipo di rating è stato dato al film, io sotto i 18 anni mio figlio, mia figlia non li porterei. Però detto questo, io che non sono invece un enorme estimatore, non sono un detrattore di Sacha Baron Cohen, però non è neanche un tipo di comicità che mi ha mai trascinato più di tanto, ho riso come un pazzo per 83 minuti. È un film totalmente improbabile che alza l'asticella del volgare talmente tanto da diventare paradossale e quindi da, in un certo senso, più che enfatizzare, neutralizzare la sua stessa volgarità. La storia è quella di Sacha Baron Cohen, che vive in Grimsby, un luogo che non esiste, però di un'Inghilterra molto proletaria, più proletaria di Ken Loach per intenderci, nella quale vive questo uomo con una moglie piuttosto corpulenta e 9 figli. Detto questo, però, ha un fratello che non c'è più, che è sparito e a un certo punto ha fatto perdere le sue tracce. Lo ritroveremo, dico cose che succedono nei primi 5 minuti del film, lo ritroveremo come super agente segreto dei servizi di Sua Maestà, un killer praticamente dell'MI6. Ebbene, il ritrovamento dei due fratelli ovviamente farà scoppiare la comicità, fatta più che di allusioni di, come dire, una sorta di taglio documentaristico veristico a sfondo sessuale, che è poi la cifra di Baron Cohen. Se lo conoscete sapete cosa aspettarvi e vi assicuro riderete molto, però non andateci coi figli, insomma. Guarda, posso immaginare perché. Franco, questa puntata l'abbiamo dedicata tanto al Made in Italy, questo sabato del villaggio molto italiano. Per questa puntata non posso non chiederti se ti è piaciuto e a chi consigli un film che io ho amato tantissimo, gli ascoltatori già lo sanno, Veloce come il vento. A te Veloce come il vento è piaciuto, lo consigli? È piaciuto tantissimo, secondo me è il vero film della settimana ed è uno dei film italiani della stagione. E mi viene da fare il ragionamento che ho fatto quando abbiamo raccontato, lo chiamavano Gig Robot, cioè è un film che in Italia, un genere che in Italia non si fa. Intanto in Italia abbiamo ricominciato a fare il genere, questo mi fa molto piacere. È un film che è il nostro Rush, però italianizzato nel senso proprio di una maggiore, se vogliamo, umanità, vicinanza, anche proprio lessicale. Stefano Accorsi, straordinario, parla in questo slang emiliano di quel distretto delle corse che sta intorno a Imola, insomma, che è un po' il milieu di questo film. Un film che ci regala una ragazza di cui sentiremo parlare, Matilda De Angelis, che sembra la Jennifer Lawrence del gelido inverno degli inizi, bravissima. È un film che ci dà la regia di Matteo Rovere, che riprende le corse in una maniera strepitosa, con un montaggio serratissimo. Insomma, io lo consiglio assolutamente e vi dico anche che alla Rosa Purpurea ascolterete l'intervista a Stefano Accorsi, esclusiva per il nostro programma, e quindi insomma dalle 18 state con noi, perché oltre a giocare insieme, vincere come sempre DVD eccetera eccetera, avremo anche la possibilità di ascoltare delle belle interviste. Dico anche, ultima cosa, quella con Federico Bellone, regista di Fame, il musical che è in scena a Milano e che riporta un altro classico del cinema degli anni 80 sul palcoscenico. Grazie Franco, dunque a più tardi dopo il GR delle 18 con la Rosa Purpurea e noi insieme il prossimo sabato. Ciao Franco. Ciao Ma. L'unico inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. il sabato alle 7.30 e la domenica alle 8.30 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Il sabato del villaggio. Pronti per la seconda ora del sabato del villaggio, sempre insieme, sempre con me, per contattarci 349-238-6666, il numero per i WhatsApp e per gli SMS, il mio account di Twitter chiocciola Marta Cagnola. Tante le pagine nella seconda ora di questo sabato del villaggio, che è come sempre la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali. Una seconda ora in cui parleremo ancora tanto del bello dell'Italia per i grandi ospiti del sabato. Oggi parleremo del nuovo disco di e con Renato Zero. State con noi, ci sarà Renato Zero in questa seconda ora del sabato del villaggio, ma anche tanti libri tra novità, classici da recuperare nello spazio di Alessandra Tedesco. Con lei parleremo anche di una serie TV destinata a conquistare e a far tremare tutti. Nel nostro appuntamento invece con Maria Luisa Pezzali, altro che pizza a domicilio, anche il grande made in Italy del cibo arriva direttamente a casa, ma parleremo anche di insetti. Ma partiamo subito con una gita a Milano. Quanto era bella questa canzone, Un romantico a Milano, una delle mie preferite in assoluto. Allora, mancano 2 giorni, 17 ore, 51 minuti, 18, 17, 16, 15, eccetera, secondi. Il 12 aprile si apre il Salone del Mobile a Milano. Allora, intanto vi do già l'appuntamento. Sabato prossimo, dalle 15, il sabato del villaggio, saremo lì. Quindi se fate un giro al Salone sabato pomeriggio, ci trovate lì, trovate me in diretta. E quindi possiamo anche conoscerci di persona. Ma una delle cose più belle che riguardano il Salone del Mobile è che, non so quanto conosciate Milano e i milanesi, ma quando c'è la settimana della moda i milanesi cominciano a lamentarsi: c'è traffico, non si trovano i taxi, c'è troppa confusione, quasi si dimenticano anche del fatto che ci sono le modelle bellissime così che passeggiano per la città. Invece quando c'è la settimana del salone sono tutti felici, perché non c'è solo il Salone del Mobile a Rofiera, ma ci sono anche un sacco di eventi in giro per la città. Lo si chiama il fuorisalone, ha preso corpo un po' da solo, era un po' difficile capire come orientarci e come orientarsi nei vari eventi. C'è una mappa bellissima che io utilizzerò per tutta la settimana dal 12 al 17, fuorisalone.it, un'iniziativa splendida. Noi ne parliamo subito con il responsabile del progetto, Paolo Casati. Buonasera Paolo. Buonasera a voi. Allora, una bella mappa, perché il fuorisalone non è in un luogo solo di Milano. Chi sarà a Milano nella settimana del Salone del Mobile avrà un sacco di eventi, più di 1000 eventi che voi avete mappato in tanti quartieri di Milano, perché il mobile fa parte dell'identità della città e in particolare questa manifestazione ha incontrato veramente un sacco di... ha intercettato gli umori, le voglie, i desideri dei milanesi, di chi fa design ma anche di chi visita o di chi abita Milano. Sì, diciamo che il design forse più della moda rappresenta questa città. Non a caso Milano è definita la capitale internazionale del design. Questo lo determinano i più di 1000 eventi che accadono in tutta la città durante la settimana del fuorisalone, ma questo determinano anche tutti gli showroom e i punti vendita che sono presenti nella città. Tutto questo crea un'atmosfera, un'energia unica che, come dicevi tu, per i milanesi non è qualcosa inopportuno, ma è qualcosa di assolutamente molto aspettato e desiderato, perché la città cambia, cambia volto, è molto internazionale, c'è proprio un'energia che si sprigiona, che è assolutamente un'energia creativa, un'energia positiva. Che mette in tanti Milano, quartieri peraltro. Che appunto mette Milano al centro, ma non una Milano più... turistica è conosciuta, ma tutta la Milano, per cui si va dal quartiere di Brera, al quartiere delle Cinque Vie, all'area di Tortona, all'area di Ventura Lambrate, quindi a tutta la città, dal centro alla periferia, che assume un'identità diversa, diventa un marchio e si comunica dando un'immagine diversa appunto della città. Cosa saranno questi eventi? Perché chi non è mai stato a passeggiare in questi quartieri nei giorni dei fuori salone magari non sa che cosa può succedere. Può succedere inaspettato, nel senso che è anche una grande festa, è un momento in cui si vive tanto l'esperienza di quello che è l'evento, per cui è l'opposto di una fiera tradizionale. Non ci si deve aspettare di muoversi in città e trovare tanti stand, ma si trovano tanti momenti di incontro, soprattutto con i designer. Si va dal designer emergente straniero fino alla grande multinazionale, per cui ci si trova tutto un po'. Sicuramente il nostro sito, la nostra guida online è un punto di riferimento importante anche per scoprire e svelare quali sono gli eventi, quindi abbiamo 100 reporter, 100 ragazzi delle facoltà milanesi di design che raccontano per noi in diretta l'evento, fotografandolo e mappandolo e portandolo sul sito, per cui per i più curiosi, magari meno addentro al mondo del design, scoprire con gli occhi dei reporter quali sono i percorsi può essere un valido aiuto per orientarsi tra gli eventi. Io ho già scaricato l'app, perché così quando sarò in giro so già dove muovermi. Indispensabile l'app. Tra l'altro voi stessi avete chiesto a chi organizza degli eventi quella settimana di inserirli in modo da appunto inserirli nel database degli eventi del fuorisalone. Assolutamente, la nostra guida da questo punto di vista è assolutamente democratica, gratuita. Oggi abbiamo, al momento siamo a 1.600 eventi pubblicati sul sito in 10 percorsi, quindi se qualcuno all'ascolto ha realizzato il proprio evento può accedere al sito fuorisole.it e caricarvi tutte le informazioni. Questo entra nel grande database che si collega anche alla app e si collega a quel motore di ricerca per immagini che vi accennavo prima. Ultima domanda, Paolo, tu che ti occupi di design e anche di comunicazione del design da qualche annetto con Studio Labo, secondo te è cambiato qualcosa con l'ondata di Expo? Allora, sinceramente con l'ondata di Expo no, nel senso che Fuori Salone è stato un modello di riferimento per chi ha fatto Expo, infatti tutti parlavano di un Fuori Expo, è stato un po' il contrario, ma Fuori Salone è un punto di riferimento mondiale da questo punto di vista. Non ti potrei raccontare veramente tanti episodi, dalla Cina ad altre realtà che ci hanno contattato, appunto perché sono interessati a questo modello. Noi quando raccontiamo Fuori Salone parliamo di un'alchimia particolare per la quale è difficile capire come possa realizzarsi questa cosa incredibile, quindi non c'è una vera e propria ricetta che può essere replicata, c'è un insieme di fattori. Expo ha provato a creare un percorso, l'ha realizzato il comune cercando di mettere a sistema tutti gli eventi che l'anno scorso ci sono stati in quel semestre, però diciamo che 6 mesi non sono 6 giorni ed è molto difficile raccogliere tutta quella restituire tutta quell'energia che noi siamo in grado di restituire in 6 giorni. Quello che è cambiato probabilmente è cambiato negli anni. Noi siamo al 16° anno di fuorisalone.it, perché è nato nel 2000 come progetto sperimentale, quasi come gioco. Eravamo studenti alla facoltà del design e ne abbiamo viste di tante. È cambiato il mondo da un certo punto di vista, è cambiata la comunicazione, sono cambiati i linguaggi, oggi ragioniamo molto più sui social, quindi è cambiato anche l'approccio alla comunicazione. Questo forse è quello che non è cambiato, e lo si può leggere nelle interviste che abbiamo pubblicato sul nostro magazine online, è lo spirito. Quindi potete leggere quello che racconta Giulio Cappellini, che è stato uno dei primi forse a partecipare e produrre eventi, è appunto un'energia che va oltre il tempo e va oltre i luoghi. Beh, quindi straordinario. È oltre, difficile da descrivere, quindi invito tutti da lunedì a martedì, poi con l'inizio ufficiale, di perdersi per la città alla ricerca di questi eventi. D'accordo con Paolo, grazie a Paolo Casati, responsabile del progetto fuorisalone.it, mappa fondamentale. Grazie Paolo. Grazie a voi, buona giornata. Noi ci ritroviamo tra pochissimo. Il sabato del villaggio. E al sabato del villaggio è il momento di parlare di libri, ma partiamo con una serie TV. Quello era il 21 ottobre 1960. Ho bisogno che tu sventi l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy. Viene da fuori città, ho indovinato. Tu non dovresti essere qui. Io non so se fu Oswald a premere il grilletto. Il passato non vuole che lo si cambi. Interferisci e si difenderà. Signor Amberson, le presento la signorina Daniel. Ai nuovi inizi. La CIA premerà il grilletto. Che cosa facciamo ora? Allora tu uccidi Oswald. Tutto ciò che dici è falso. E questa è 22 novembre 1963, 22-11-63. Il titolo originale è ovviamente al contrario, come dicono le date gli americani, 11-22-63. Perché partiamo da una serie televisiva che, vi dico subito, andrà in onda dall'11 su Fox? Lo chiediamo alla nostra Alessandra Tedesco. Cosa c'entra con i libri 22 novembre 63? Indovina un po', perché anche questa serie televisiva, come altre serie televisive, come i film, è stata tratta da uno dei bestseller, forse di uno degli scrittori più amati al mondo, Stephen King, uno che ha venduto, guarda, 500 milioni di copie, ti dicono qualcosa, una roba veramente allucinante, veramente, insomma, uno degli scrittori più amati a livello internazionale. Il libro era stato pubblicato nel 2001, ma chiaramente adesso, nel 2011 scusate, non nel 2001, e chiaramente adesso verrà ripubblicato in seguito alla serie TV, alla serie televisiva. E tra l'altro Stephen King, che è uno abbastanza restio alle interviste, non si fa intervistare facilmente quando pubblica un nuovo libro. Per l'uscita della serie televisiva si è concesso. Ah, ha voluto spiegare? Sì. Ha rilasciato un'intervista in Italia, per esempio al Corriere della Sera, dove ha spiegato che lui ama molto le serie televisive. Indovina un po' che cosa ama? Breaking Bad e The Walking Dead. Ci avrei scommesso. Beh sì, diciamo, forse mi avrebbe stupito se avesse scelto qualcosa di più light. E poi dice che le serie televisive possono essere utili, magari più dei film, per raccontare dei libri come questo. Cioè, 22-11-63, che era di ben 700 pagine, e quindi insomma riesce a creare anche una certa suspense nel lettore. Sì, anche perché poi la sceneggiatura di un film di 80/120 minuti qualcuno va fino a 150 è piccola, invece una serie TV dà un po' più di soddisfazione. Sì, sono 9 ore circa, credo, la serie TV, almeno così dice King. Sono 8 puntate da circa 55 minuti l'una. Quindi non ci siamo. Lo so a memoria, ce l'ho scritto davanti che mi ricordo tutta memoria. Ovviamente 22 novembre 63, abbiamo sentito anche dal trailer, si parla dell'omicidio di Kennedy. Sì, infatti è un romanzo in cui Stephen King all'epoca immaginò di poter far viaggiare un uomo nel tempo per affermare l'omicidio Kennedy. E si domanda, insomma, che cosa sarebbe accaduto nella storia del mondo se l'omicidio Kennedy non fosse avvenuto, se qualcuno avesse fermato la mano di Lee Oswald. E qui, insomma, da qui tutto il romanzo, naturalmente, alla Stephen King, e poi vedremo come sarà la serie TV. Ovviamente il libro si trova ancora, immagino appunto verrà pubblicato. Viene ripubblicato proprio dal 12 in libreria, proprio in occasione dell'uscita con della la fascetta serie. Verrà ripubblicata. Ci sarà la faccia di James Franco, ti dico solo in copertina. Okay. Però non è ancora in classifica. No, invece è entrato in classifica subito. È uscito nel giro di una settimana. È entrato in classifica un altro libro di Stephen King. E quanto a copertina, Marta, te la farai vedere perché veramente inquietante. Il Bazar dei Brutti Sogni, pubblicato da Sperling e Kupfer, editore come tutti gli altri libri di Stephen King in Italia. Allora, giusto per descrivere la copertina alla radio, c'è il volto di un uomo, ma è completamente scavato, e all'interno ci sono c'è un bosco, delle farfalle, degli animaletti. Io già dico che normalmente ogni tanto Stephen King viene a fare la regia dei miei sogni, ma credo che anche i miei sono molto molto molto agitati e complessi. Ma questo è il Bazar dei Brutti Sogni. Allora, innanzitutto è una raccolta di racconti, alcuni sono stati già pubblicati, alcuni invece sono inediti. Il primo è veramente horror, è un racconto già pubblicato, si intitola Miglio 81. C'è un'autoferma in una specie di, chiamiamola autogrill, insomma in America non si chiamerà così, dismesso, è tutta coperta di fango e chiunque si avvicina a quest'auto viene inghiottito e ovviamente muore. Ma certo, ma perché no? Ma mi pare giusto. E tutto ciò accade al miglio 81. Ma è proprio libro, già sento che è libro per me. Già, sì, poi sì. Ci sono altri racconti proprio alla King. Sai che lui mescola spesso anche elementi sovrannaturali nei suoi racconti, non solo l'horror ma anche il sovrannaturale. Allora c'è questo racconto, La Duna, che è un colloquio fra un vecchio giudice e il suo avvocato. Il giudice sta facendo testamento e nel fare testamento nomina una duna di sabbia dove succede un fenomeno particolare. Cioè improvvisamente viene scritta nella sabbia di questa duna il nome di persone che stanno per morire. Alessandra, questa puntata l'abbiamo dedicata tanto, la stiamo dedicando tanto al Made in Italy, quindi magari parliamo di qualcosa di italiano che è successo, così mi fai anche un po' respirare dopo questo. Sì, Stephen King. Diciamo che Stephen King è consigliato chiaramente ai fan di Stephen King, certo. A chi non ha paura, a chi non fa gli incubi di notte, perché sennò se leggi questo libro poi... Oppure come consiglio, leggetelo di giorno. Ogni tanto io i libri paurosi tendo a leggerli di giorno. Vero, in modo vero. Tale che mi fanno meno impressione poi la sera. Sì, dicevamo qualcosa di molto italiano, perché questa è stata la settimana in cui a Bologna c'è stata la Fiera Internazionale dei Libri per Bambini e Ragazzi, che è uno degli eventi più importanti a livello veramente mondiale per questo settore, ed è l'unico settore tra l'altro di libri che va bene in Italia, anche perché la fascia dei lettori più forti è fra gli 11 e i 16 anni. E dopo che li perdiamo si ammosciano un pochino, si vengono distratti, vengono distratti da altro. Io ho scelto un libro in realtà per adulti, ma l'ho fatto leggere ad un ragazzo, perché ho voluto fare questa sperimentazione. Età? Allora, io l'ho fatto leggere a Tommaso, che ha 17 anni ed è un giocatore di basket. Mm. Perché l'ho scelto proprio così? Perché il libro si intitola Le vittorie imperfette, pubblicato da Feltrinelli e scritto da Emiliano Poddi, e racconta una famosissima partita di basket, la finale alle Olimpiadi del 72, di Monaco 72, fra Stati Uniti e Unione Sovietica. All'epoca c'era la Guerra Fredda e ci sono 3 secondi fondamentali in questa partita. All'inizio, diciamo, l'Unione Sovietica parte a razzo, poi c'è la rimonta degli americani, eccetera, ma come dire, e soprattutto la storia anche di due personaggi. Allora, i protagonisti di questo romanzo, diciamo che lo scontro fra Unione Sovietica e URSS viene interpretato da Kevin Joyce, che è un giocatore newyorkese, proprio come Bobby Fischer, lo scacchista, perché era lo stesso periodo in cui gli Stati Uniti avevano battuto l'Unione Sovietica a scacchi, quindi certo, insomma sempre certo. Di quel periodo lì parliamo. E invece dall'altra parte c'è Alexander Belov, che non è, diciamo, la star della squadra, ma un giocatore comunque solido, affidabile, un orfano di San Pietroburgo, all'epoca veniva chiamata Leningrado. Allora, che commento alla fine Tommaso mi ha dato di questo libro? Perché a me è piaciuto il libro, ma volevo avere il parere di un ragazzo, perché secondo me è veramente indicato anche certo, per loro. Certo. Lui mi ha detto che il libro gli è piaciuto molto perché ha la capacità di raccontare parallelamente sia una storia sportiva che un periodo storico di tensione come quello della Guerra Fredda. Chiariamo che i 17enni di oggi non sanno nulla della Guerra Fredda, noi abbiamo certo, memoria, noi qualche storica, memoria ce l'abbiamo, sì. Ma loro non sanno assolutamente nulla. Poi viene descritto bene l'aspetto psicologico degli atleti, quindi viene tutto riportato al singolo personaggio. E secondo appunto Tommaso, che, a cui ho chiesto questa piccola recensione, ho fatto recensire il libro, e lui dice che c'è questa idea da parte dello scrittore di trasmettere l'idea che lo sport può essere un pretesto per descrivere un particolare momento della storia, o in questo caso attraverso i due cestisti rivali, ma soprattutto nel libro non ci sono né buoni né cattivi, solo avversari o nemici. Quindi lo scrittore non prende mai la parte, come dire, certo, di uno dell'altro, ma anzi prende la parte di volta in volta dei singoli personaggi, però ecco, non ne dà un giudizio morale. Ed è bello secondo me che oggi un ragazzo di 17 anni, attraverso un libro come questo di Emiliano Poddi, Le vittorie imperfette, pubblicato da Feltrinelli, possa imparare qualcosa anche della storia, oltre che dello sport, naturalmente della storia che ci ha preceduto, della storia contemporanea. Quindi per grandi, ma anche ai liceali, allora lo consigliamo. Io guarda, lo consiglio dai 16-17 anni in su, assolutamente può essere leggibile da tutti, non solo da chi ama lo sport, ma sicuramente da chi ha voglia di rivivere anche un po' quel periodo di contrasto che in questo caso è vissuto attraverso una partita di basket, i famosi 3 secondi di quella finale. Per concludere, vedo che hai davanti a te una copertina molto colorata. Sì, guarda, perché poi ho fatto un'associazione di pensiero. Questo è un libro per bambini, in questo caso per bambini, che è stato pubblicato uno o due anni fa, non ricordo bene, però subito mi è venuto in mente, perché racconta una storia simile di una partita di basket. Si intitola Il numero 5, l'ha scritto Gabriele Nanni, pubblicato dal Battello a Vapore, PM, e racconta la storia di un ragazzino che fa parte di una squadra di basket di Rimini che va a giocare una partita contro dei coetanei di Praga. Beh, anche qui c'è la guerra fredda e lui riceve l'incarico da un amico di portare una scatola dove ci sono dentro delle scarpe da ginnastica, diciamo con un marchio famoso che chiaramente il ragazzo cecoslovacco all'epoca non poteva possedere perché era vietato. Certo. E allora, attraverso, in un modo molto rocambolesco, riesce a consegnargliele durante la partita, il suo, diciamo, il numero 5 della locomotiva Praga, insomma della squadra avversaria, riesce a indossarle e la censura non se ne accorge perché così concentrata su altre cose che non si accorge che il ragazzo ha indossato le scarpe di questa famosa marca occidentale e che quindi è riuscito in qualche modo a fregare, insomma, la censura dell'epoca. Ma che belle storie di sport, ma non solo questo, più per ragazzini. Sì, questo diciamo dai 7-8 anni in su. Anche questo l'ho fatto leggere a un ragazzino di 10 anni, Gabriele, giusto per capire se riusciva a immedesimarsi nel periodo storico, perché appunto per loro non vuol dire niente. L'ha capito tutto e allora ho detto: piace agli adulti, ma piace sicuramente anche ai bambini. Quindi Il numero 5, Gabriele Nanni. Alessandra, per concludere questo appuntamento, il consiglio del cacciatore di libri? Cacciatore di libri, ragazzi, ascoltatelo quando volete, cioè il podcast. È vero, Radio 24.it, basta. Ma perché quando dico alle 6.30 del mattino mi dicono: ma io dormo, alle 22 no, ma io sono a cena. E vabbè, c'è il podcast Radio24.it, il cacciatore di libri è sempre a vostra disposizione, non potete scappare. Mi piace molto questa idea. Grazie Alessandra Tedesco, al prossimo sabato. Il sabato del villaggio. Ed è sempre il sabato pomeriggio di Radio 24, musica, TV, serie TV, cinema, ma anche tecnologia, piaceri della vita e consumi. Chi è? Lì del nero, signore, ho portato la pizza. Lasciala davanti alla porta e levati dalle scatole. E per i soldi? Quali soldi? Quelli che mi deve per la pizza, signore. Ah, sì? E quanto dovrei darti? Sono 11,80, signore. Tieni il resto, lurido bastardo. Pilorcio. Ehi, ti do il tempo di contare fino a 10 per far sparire la tua brutta faccia gialla dalla mia proprietà prima che ti riempia le budella di piombo. 1, 2, 10. Chissà chi si ricorda questo film che, io mi sento male al solo pensiero, è uscito 25 anni fa in Italia. Uscì il 18 gennaio 1991. Mamma, ho perso l'aereo. Fantastico. Ciao Marisa, te lo ricordi? Assolutamente sì, visto un sacco di volte. Ciao Marta, un saluto a tutti. Allora, Mamma ho perso l'aereo è per noi un film mitico per tante tante ragioni. Però una cosa che mi piace molto, ripensando ai film e ai telefilm del passato, che noi vedevamo nei film, appunto in televisione, delle abitudini americane che non erano ancora le nostre. La pizza a domicilio io me la ricordo più appunto nei film e nei telefilm, con questi fattorini con la divisa che la portavano, però la vedevamo più che altro in TV. Eh sì, la vedevamo in TV, invece adesso insomma è entrata nelle abitudini quotidiane di molti di noi. Beh, cito ad esempio lo sbarco in Italia qualche mese fa di Domino's Pizza, che sta puntando molto sul servizio. Ma hai detto che l'hai provata Domino's Pizza? L'ho provata. Hai provato la pizza americana? Com'è, americana? Allora, la pizza americana, quando ho dovuto compilare il questionario, come dire, al servizio ho dato 10 perché era un giorno di pioggia incredibile, la pizza è arrivata calda, insomma è stato veramente un servizio al top. Beh, la pizza ho dato 7 perché dai, insomma, per gli amanti della pizza americana, le nostre pizzerie poi ci sono quelli che l'amano americana e la vorranno così, però insomma intanto loro sono sbarcati, mentre facendo una parentesi, Starbucks lo aspettiamo ancora, lo aspettiamo ancora e lo dovremo aspettare per tutto il 2016, sembra nel 2017 primo punto vendita a Milano. Ok, perché spesso poi Starbucks torna nei discorsi. Ma dicevamo, perché ti ho portato stato sull'argomento della pizza e del cibo a domicilio. Perché tu mi hai chiesto di parlare di Made in Italy. Che cosa c'è di più Made in Italy del cibo italiano? Una delle tre F dell'eccellenza italiana: food, appunto, il cibo, e poi fashion, la moda, e furniture, l'arredamento. Certo. La nuova tendenza legata al cibo è appunto quella del cibo italiano di qualità, quindi non solo pizza, a domicilio, ordinato online, ovviamente. Grande terreno, tutto da scoprire, l'e-commerce agroalimentare, perché online compriamo, è vero, ormai di tutto, però di cibo ne compriamo ancora poco. Basta pensare, Marta, che l'online, l'e-commerce agroalimentare pesa per circa il 2% sul totale del mercato e-commerce, quindi è pochissimo. Grande potenzialità, dunque, per farti capire, la moda pesa più o meno il 9%, quindi c'è molto da recuperare, e ecco perché molte startup della cosiddetta New Food Economy stanno puntando sul settore. Parliamo non solo della spesa online, qui tra l'altro a spianare la strada è arrivato un colosso come Amazon, da qualche tempo è arrivato Amazon Fresh anche in Italia, ci sono le piattaforme per la consegna a casa dei prodotti a chilometro zero, qui cito su tutte la più famosa, che è cortilia.it, oppure le app per la consegna a domicilio del cibo dei propri ristoranti preferiti, e qui cito Deliveroo, che è sbarcato da poco anche a Roma dopo Milano, oppure anche Foodora, che è attiva a Milano e a Torino. E poi ci sono le app che hanno deciso di puntare non solo sul prodotto, Marta, ma anche sul servizio. Certo, certo, raccontami un po'. Allora, io in Essere Avere li ho chiamati consumi in scatola, perché la formula, che è già diffusa negli Stati Uniti e anche nel Nord Europa, è questa: prodotti freschi, già dosati, in alcuni casi puliti, ad esempio se si tratta del pesce, pronti all'uso, completi di ricette, tutorial, istruzioni per utilizzarli al meglio. Quindi praticamente già la spesa fatta e dosata per però cucinarci noi un piatto. Esatto. Ad esempio, cuomi.it ci consegna a casa la nostra spesa settimanale, abbinata appunto ai menu online diversi di settimana in settimana, ingredienti già dosati con tutte le istruzioni per cucinare. Poi c'è Fancit, che ci trasforma in grandi chef, basta un clic e arriva a casa la scatola con l'occorrente per cucinare la cena, ad esempio, di un ristorante stellato. Quindi bisogna essere bravi come il cuoco, Però loro dicono che è antifallimento. Ascoltiamo perché proprio spiegata nel dettaglio, molto facilitata. Ce l'ha raccontato Giulio Mosca, che è uno dei fondatori di Fancit. Ascoltiamolo. Sul nostro sito scegli un menù che più ti ispira, sono divisi per categorie: carne, pesce, vegetariani, e decidi quando e dove riceverlo, e con un packaging che è refrigerato e quindi dà la possibilità di spedire ingredienti di alta qualità freschi, lo ricevi a casa con poi le istruzioni per andarlo a replicare. Ingredienti dosati e puliti, nel caso sia necessaria anche una preparazione, così? Esattamente, perché il nostro scopo è quello di poter dare a tutti la possibilità di ricreare dei piatti di alta cucina. I ristoranti con i quali collaboriamo preparano gli ingredienti in modo tale che lo sforzo del cliente sia ridotto ai minimi termini, ma soprattutto il margine di errore sia prossimo allo zero. I prezzi delle scatole, dacci un'idea. Abbiamo diverse fasce di prezzo. Partiamo da un minimo di 19 euro a persona, fino ad arrivare al massimo, per quanto riguarda un ristorante stellato da una stella Michelin, di 60 euro a porzione, ma diciamo che la nostra media va dai 22 ai 25 euro a persona. Quali città coprite? Noi spediamo in tutta Italia, lavorando con ristoranti selezionati in varie città d'Italia. Una cosa molto interessante magari è poter ordinare da Roma un menù piemontese o viceversa. Il nostro obiettivo a breve termine, entro la fine di quest'anno, e di avere almeno un ristorante per ogni regione d'Italia. Sai cosa mi piace, Maria Luisa, di questo Fancit, Fanceat, perché poi qualcuno magari non lo trova? Che stavo guardando le FAQ, le Frequently Asked Questions, e spediscono in tutta Italia. Esatto. Perché io, che abito a 20 km da Milano, cioè abito a un quarto d'ora da Milano, è già non i vari servizi, i vari servizi di consegna non funzionano, certo. Quindi la spesa online, anche se io abito veramente a 10 minuti dal confine della città, niente, non è possibile ordinare. Invece loro spediscono in tutta Italia e quindi li proverò e vediamo, diciamo. Ti vedremo spadellare, fai assolutamente, no, allora, un io video. Sono abbastanza brava, io cucino discretamente. Tra me e il cuoco stellato c'è una grossa differenza, quindi vediamo. Ma mi metto alla prova, di noi c'è un MasterChef. Qua dice appunto: devo essere un cuoco esperto? Assolutamente no, scrivono, quindi io mi fido. Esatto. E poi bene, perché al di là, insomma, dell'aneddoto personale dell'abitare un pochino fuori città, l'Italia non è fatta solo dalle grandi città, quindi è bene che questi servizi, certo, arrivino un po', certo, dappertutto. Sono molto contenta. Abbiamo parlato di cose buone da mangiare e Maria Luisa mi ha già spifferato che anche Cristina Lazzati ci parlerà. Aiuto. Siccome lei va tutte le settimane a scovare per noi delle curiosità, delle idee, dei suggerimenti molto particolari. Buongiorno Cristina. Buongiorno. Mi hanno buongiorno. Detto che hai delle prelibatezze per noi questa volta. Sì, è certo che mi avete proprio aperto la strada rispetto a stellati, eccetera, eccetera. Io arrivo con il Nobel Food, che però tradotto vuol dire al 90% insetti. Ah, ops. Questi, allora, siccome la FAO ha appena detto che ci sono 1000 specie commestibili in giro per il pianeta, allora ho pensato, dico bene, questi insetti allevarli costa poco, producono pochissimo CO2, hanno un sacco di proteine, ma tutte queste cose bene o male un po' le abbiamo sentite perché Expo ha un po' aperto le porte a questo tipo di discorso. Però mi sono detta, bene, ma se io voglio mangiarmi questi insetti, voglio assaggiarli, voglio cucinarli, eccetera, come faccio? Allora, in Italia obiettivamente abbiamo, come ahimè spesso succede, delle leggi un po' fumose, però sta di fatto che è possibile trovarli. Tenete conto che si possono comprare sicuramente da un sacco di siti all'estero. In Olanda addirittura una catena di supermercati ha già iniziato a metterli a scaffale, hamburger di vermi, delle farine, cracker di larve, ad esempio, sono già disponibili. La Svizzera si sta preparando e il Belgio ha approvato ben 10 specie idonee al consumo umano. Francia e Regno Unito si stanno velocemente mettendo. Noi in Italia siamo un po' perché vedi sopra, come dire, i piatti della nostra cucina, come dire, hanno un po' un allure un po' diverso. Comunque Giulia Maffei e Giulia Tacchini hanno aperto un sito che si chiama Entonote, dove bene o male si possono cominciare a capire un po' come muoversi in questo mondo. E ad esempio loro ci dicono che il grillo è il più buono e il più versatile. Saltato in padella con un po' di spezie si può sgranocchiare tranquillamente davanti a un film o dove fare, in linea di massima. Ah, invece delle patatine. Uh-huh. Invece delle patatine, le camole della farina sono invece un pochino più difficili, però anche quelli, insomma, una volta che si cucinano pare che si possano comunque mangiare comodamente. Comunque il grillo va alla grande, la formica dipende che sia quella dei messicani o quella dei prati, perché anche di formiche non è che si mangia le formiche ovviamente che troviamo nelle nostre case e cerchiamo di uccidere con la chimica o altro, ma bensì ovviamente parliamo di insetti che si allevano per essere edibili, quindi non sono tutti gli insetti, eccetera. E comunque una grande avvertenza: non mangiate gli insetti di casa, perché soprattutto per chi vive come me a Milano o come voi anche, non è che proprio respirino l'aria migliore del mondo. Questi insetti devono mangiare bene, biologico, eccetera, eccetera, e a quel punto sono tutti garantiti. Comunque, chi li volesse comprare lo trova su insetticommestibili.it. Se chi invece, per finire, vuole proprio risparmiare, quindi non se li vuole comprare, facciamo conto che un pacchetto di insetti costa sui 5-6 euro, può tranquillamente allevarseli in casa. Infatti ci sono ben due living farms da casa, uno prodotto da KitchenAid che si chiama Lepsis e un altro Living Farms Hive, che sono entrambi dispositivi da casalinghi dove si possono mettere le larve di insetto, nutrirli con tutta una serie di prodotti biologici che uno si compra tranquillamente, carotine e quant'altro, insomma, e soprattutto fanno molto bene ai bambini, alta proteina. Se li volete assaggiare andate da Ento in UK, che è un ristorante tutto a base di insetti che ha aperto da poco. Allora, voglio vedere se i vegani che protestano quando Cruciani parla di maiali, di agnelli, mi protestano anche sugli insetti. insetti, perché a questo punto vorrei che protestassero anche contro gli insetti per essere un po' equi. Chi lo sa, lo sapremo. Grazie a Cristina Lazzati per essere stata con noi. Grazie a voi. Ciao Cristina. Ciao Cristina. Beh, settimana prossima c'è il Salone del Mobile, di solito un happy hour con insetti che fa figo. Certo, fa c'è molto sempre. Figo. Sul sito c'è anche il miele afrodisiaco che contiene una vespa, se consumato aumenta l'effetto sessuale. Vabbè, non lo so. Maria Luisa, per concludere l'appuntamento con Essere Avere. Domani alle 22, non mancate. Ciao Marta. Ciao, al prossimo sabato. Il sabato del villaggio. Chiedi di nascere, tu chiedi un'istruzione, chiedi lavoro e dignità. Chiedi di avere degli eredi, un Dio nel quale credi, rispettabilità, una certa autonomia, una vita solo tua che nessuno ti stravolgerà. Questa è Chiedi, l'avete già sentita in tutte le salse perché è il nuovo singolo di Renato Zero. È già fuori da un po' di tempo questo singolo, ma ieri è uscito l'album. 3 anni fa l'album precedente si intitolava Amo, questo invece si chiama Alt. Parla di violenza, di giovani, di lavoro, dell'arte, dell'amore, dell'ecologia, dell'attualità. Parla veramente di tanti temi. Renato Zero in questo nuovo album con 14 brani inediti, tra l'altro il primo e il 2 di giugno sarà all'Arena di Verona. Io non vedo l'ora di andarlo a vedere. Cosa dice Renato Zero? Soprattutto che se non vivi, non scrivi. E lui ci ha pensato, e lui ci ha spiegato. Io vivo la vita, vivo nel mondo e per questo ve lo racconto. Sì, io penso, guarda, che la formula sia applicabile anche per esempio a un droghiere, a un panettiere, perché loro, a furia di vedere tutta questa movimentazione di anime, diventano addirittura dei psicanalisti. Io ho visto tante volte, purtroppo queste botteghe stanno scemando perché le grandi distribuzioni ormai hanno fatto man bassa di tutte queste botteghe artigiane e quant'altro. Però io ho assistito veramente in molte occasioni che queste persone, per lo più signore, si rivolgono al proprio panettiere o macellaio chiedendo consigli sulla famiglia, sui figli, problemi di varia natura, eccetera. Quindi adottare un pochino questa formula, che per poter in qualche modo raccontare, per poter amministrare anche un po' la propria conoscenza, il modo migliore sia quello dell'acquisizione, quindi il marciapiede tutto sommato rimane ancora una delle postazioni più favorevoli in questo senso. Hai preso delle posizioni anche coraggiose sugli imprenditori. È raro che un artista capisca la missione, l'impegno, il fatto che un imprenditore si voti all'azienda. Io mi ricordo che c'erano dei signori che amministravano queste entità lavoratrici con una certa discrezione e un certo tatto. E mi ricordo anche che molte volte questi problemi di incompatibilità si risolvevano proprio fra il padrone della fabbrica e l'operaio. Io stesso mi ricordo che una volta all'RCA c'era uno sciopero dei metalmeccanici, andai da Giuseppe Ornato, il presidente dell'RCA, con un megafono in mano e gli dissi: Giuseppe, se tu vuoi farmi veramente un grande favore e vogliamo scongiurare che queste persone si perdano proprio la loro forza, la sopportazione, proviamo a scendere giù e fagli un discorsetto te, che magari ascoltando te si tranquillizzano. E devo dire che Giuseppe Ornato scese la scala degli uffici dell'RCA, si presentò nel piazzale dove c'erano tutti gli operai e prese il megafono e gli parlò. Queste persone, dopo il discorso di Giuseppe, che gli garantiva evidentemente sulla sua parola che avrebbe operato una certa miglioria, del contratto, loro se ne andarono pacificamente alle loro postazioni. Un'Italia con quelle premesse, con quel tipo di adattamento, se vogliamo dire così, cioè il fatto in qualche modo di pianificarsi senza strumenti alternativi o di infiltrazioni politiche, riusciva a trovare l'equilibrio, capito? Quindi oggi ritengo che un'operazione che debba essere fatta, a mio parere, è soprattutto moderare un pochino l'aggressione del fisco nei confronti di questi signori, perché se questa categoria di persone riesce annualmente ad accrescere il loro fatturato, secondo me bisognerebbe premiarli, bisognerebbe dirgli, piuttosto che farti diventare un potenziale evasore fiscale e al limite, dopo di questo, addirittura di mettere per strada tutte queste famiglie, io ti voglio premiare e ti riduco l'imposta. Cioè, lo sto dicendo senza assolutamente né presunzione né paura di offendere nessuno. Credo che il modo di annullare e di annientare il sospetto sia proprio cercare di dimostrare agli altri che siamo disponibili al dialogo e all'accomodamento. E credo che questo i sindacati, con tanta franchezza, visto che qualcuno di essi da sindacalista è diventato onorevole, e mettendo in ballo anche una credibilità, perché se nasci, secondo me, sindacalista, muori sindacalista per una questione di coerenza, poi mi sbaglierò. Renato, hai aperto un capitolo delicatissimo, preziosissimo, molto intenso. Avrò un macello di querele. Hai aperto un capitolo delicatissimo, prezioso, sulla fede. Non ti sei risparmiato, sei stato molto chiaro e molto aperto in alto. Ma io, sai, con la fede, più un discorso più personale della fede non credo esista, perché prima di tutto è un tasto delicato e molto sensibile, e poi investe amministrazione così popolosa di cristiani, di cattolici, no? Quindi questo rende ancora più impegnativo il confronto, capito? Però mi pare di sentire sempre meno nominare il nome di Gesù. Si dice anche che nei comandamenti che non debba essere nominato in vano, però in questo momento credo che non sarebbe in vano coinvolgerlo in questa, diciamo, perlomeno in questo tentativo proprio di riconferire una certa fiducia nei popoli in generale, perché poi alla fine noi lamentiamo determinati pericoli e rischi, ma poi dobbiamo vedere anche di queste popolazioni che si sottraggono a una morte certa, cercando di portare in salvo anche i loro figli, eccetera. Quindi, sai, anche questo atteggiamento di non voler considerare l'eventualità di non rifiutare un contributo, un aiuto, mi sembra estremamente doloroso anche per chi ha fede, soprattutto per chi ha fede. Per concludere vorrei citare una frase molto bella che hai detto durante la presentazione: la sofferenza è un'amica eccezionale, madre della saggezza, della sopportazione e della rivoluzione. Ma al di là della sofferenza, che spesso è quella che porta all'arte, cosa invece ti fa felice? Ma guarda, la felicità è c'è una barzelletta di questo signore che si va in un negozio di scarpe e vede un paio di scarpe in vetrina e gli dice al proprietario, dice: guardi, mi piacerebbero quelle scarpe. E il proprietario gli fa, dice: che numero? Dice: guardi, io di solito porto il 41. E questo signore gli prende il 41 e quest'altro lo indossa e fa: come va? Gli fa il proprietario. Dice: sì, non male. Dice: però questo è un 40. No, va benissimo, va benissimo. Insomma, nei giorni successivi, nelle settimane successive, questo chiede un numero sempre più piccino. Alla fine questo proprietario gli fa: scusi, mi levi una curiosità, ma siamo arrivati al 37. Dice: guardi, io lavoro tutto il giorno, lei non immagina la soddisfazione la sera quando me levo le scarpe. Sotto la pioggia o col sole, più aggressivo che c'è, si vive bene così, senza troppe richieste. Buon compleanno a fabulatori, il mondo è con voi. E questo era un piccolo assaggio di Alt, il nuovo album di inediti di Renato Zero, che è uscito ieri, due concerti all'Arena di Verona, 1 e 2 giugno. Noi ci salutiamo qui, ma solo per poco, perché è il momento di dare la linea al giornale radio delle 17, ma poi saremo ancora insieme con l'ultima ora del Sabato del Villaggio. Come ogni sabato, sarà l'appuntamento del nostro RadioTube. A tra poco!